faccia ogni cosa che fai. Ogni volta è un massacro se tu te ne vai. Sì, lo so che mi piace fermarmi a pensarti, ma se posso toccarti funziona di più. E non serve spiegarti la storia che sei. Le parole sono senza ritorno, lo sai. Preferisco appoggiare le labbra alle tue, che si agita contro le mie. Non mi va di parlare di ieri, con la vita non ci sto mai pari. Tu sei molto diversa dagli altri, dai. Sempre sulle mie frequenze, sei grande ed incerte. Vedo molto rispetto per ogni tua idea. Non la voglio cambiare, per pazzesca che sia. Non ti stresso per farti più simile a me. Se fossi diversa non saresti più te. Poi nessuno conosce nessuno, non si sa mai con chi stai, però sempre sulle mie frequenze.